torniamo a parlare di Pinar Selek, parliamo appunto di lei, della femminista, dell'attivista femminista, antimilitarista, pacifista e sociologa turca Pinar Selek, in occasione appunto del nuovo processo che si terrà domani. E come sapete appunto qua ne abbiamo parlato da questi microfoni un po' giustamente per esprimere non solo la nostra solidarietà ma anche per portare appunto a conoscenza a tutte voi di questa storia. Nel gennaio del 2013 Pinar Selek è stata condannata all'ergastolo, anche se era stata già assolta 3 volte in passato per le stesse accuse. Gli esperti interpellati sul caso Selek hanno ipotizzato che l'esplosione di cui chiaramente è stata di cui è stata accusata di essere partecipe Pinar Selek, in realtà probabilmente non sia stata nemmeno causata da una bomba ma da una fuga di gas. Le avvocate e gli avvocati di Pinar Selek hanno ricorso contro la sentenza, ma il procuratore capo della Corte Suprema di Appello ha presentato una richiesta di approvazione della sentenza di condanna emessa dalla 12ª Corte Criminale di Istanbul contro la Selek, sentenza appunto che prevede l'ergastolo, nonostante gli avvocati e le avvocate sostengono che questa kafkiana procedura giudiziaria abbia violato tutti gli standard internazionali e anche quelli turchi sull'essere processati 2 volte per lo stesso reato e sui processi penali. Il verdetto finale dell'anno scorso è stato emesso nonostante l'opposizione del giudice a capo della corte composta da 3 magistrati giudicanti, scatenando una grande indignazione sia all'interno del paese appunto da cui viene Pinar Selek sia all'esterno della Turchia. Il giudice capo ha respinto il verdetto sulla base della mancanza di prove del fatto che l'esplosione fosse stata causata per l'appunto da una bomba, ma è stato messo in minoranza dagli altri 2 giudici suoi colleghi. A seguito della sentenza il Ministero di Giustizia turco ha emesso un mandato di cattura per Pinar, un mandato di cattura internazionale per Pinar, e ha chiesto alle autorità francesi, la Francia è il paese dove Pinar si è appunto rifugiata, l'estradizione. La richiesta è stata di recente respinta dall'Interpol. Pinar Selek, a cui non è mai stata fatta domanda sull'esplosione, quindi sul reato, sulla situazione, la vicenda che dovrebbe appunto portare alla, secondo la corte turca, al suo ergastolo, è diventata l'unica sospettata e condannata in questo caso. Questo esempio indica come Pinar sia stata palesemente presa di mira per il suo attivismo antimilitarista e chiaramente antigovernativo. Sebbene le prove e analisi forensi abbiano concluso che non vi sia stata alcuna condotta criminale, il sistema si è dato da fare per creare una criminale. Pinar Selek è stata criminalizzata ancora prima della costruzione del crimine. Tutti questi atti di ingiustizia hanno l'obiettivo di trasformare un'attivista per la pace in un'assassina di massa agli occhi dell'opinione pubblica. Invece di porre fine alle ingiustizie che hanno ferito la coscienza pubblica, il procuratore capo della Corte Suprema d'Appello ha revocato inspiegabilmente la sentenza di assoluzione e ha fatto una richiesta giudiziaria per approvare la condanna di Pinar Selek all'ergastolo. Ora siamo nella situazione più critica. Se la Corte Suprema appunto nell'udienza di domani approverà la sentenza della Corte Locale contro Pinar Selek, ci sarà solo un altro modo di fare appello contro l'approvazione dell'ergastolo e si avrà solo una piccola opportunità per cambiare la decisione. Ci sarà una sola udienza presso la Corte Suprema e poi la Corte Suprema si pronuncerà sul caso. Quindi diciamo, questo è l'invito da parte, diciamo, sulla rete troverete tantissimi inviti a partecipare, a sostenere, a mandare mail, diciamo, fare quanto possibile per sostenere attivamente, pubblicamente la battaglia di Pinar Selek. Alla fine della, diciamo, intervista che adesso mandiamo in onda e che è stata appunto registrata durante la diciamo la presenza 2 anni fa, ad ottobre del 2012, di Pinar Selek qui a Roma, vi darò appunto riferimenti per poter diciamo prendere parte attivamente a quello che appunto è la battaglia di Pinar Selek contro un'ingiustizia